Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Qual è il peso dell'anima e quanto pesa innamorarsi? A Madrid, la giornata mondiale della gioventù tra Papa Boys, parroci e indignados. Fenomeni fisico-sociali. Più il ceto medio si restringe, più si espandono i privilegi. Buongiorno e benvenuti a Magazine 24 da Marco Bellinazzo. È domenica 7 agosto e nel consueto appuntamento che Radio 24 dedica a periodici, riviste e settimanali, partiamo da un bell'articolo di Niccolò Ammaniti sul numero di Wired, che partendo dal famoso film di Alejandro González Iñárritu, il quale ci ha raccontato appunto che l'anima pesa 21 grammi, ha provato a condurre su se stesso una serie di esperimenti di cui ci rende edotti in questo articolo. Scrive Ammaniti: circa un anno fa mi sono preso un'incazzatura storica. Un amico a cui avevo prestato la macchina per una scappatella extraconiugale mi ha distrutto una fiancata. Invece di confessarlo apertamente, l'ha lasciata sotto casa mia e poi è riuscito a sostenere che lui non c'entrava niente e che qualche bastardo aveva strusciato contro la macchina ed era scappato. Quando il misfatto è diventato palese, ho sentito una roba acida che mi straziava le viscere, un calore infuocarmi i padiglioni auricolari e le vene delle tempie trasformarsi in tubi per annaffiare. Ho aspettato paziente, facendo crescere sentimenti di odio e vendetta, e poi di corsa sono andato in bagno e mi sono pesato. Pesavo esattamente 34 grammi in più, il peso dell'incazzatura. E poi racconta che vorrebbe appunto provare anche a misurare il peso dell'innamoramento. Si dice convinto Ammaniti che in questo esperimento che poi farà, piuttosto che pesare appunto molti grammi, l'innamoramento potrebbe consistere in appena qualche grammo, insomma, ma è un esperimento che farà e poi ci racconterà nel prossimo articolo. E proprio di Niccolò Ammaniti è il nuovo libro che da venerdì è in edicola con Il Sole 24 Ore. I libri che hanno vinto il premio Strega, i capolavori del premio Strega, da qualche settimana Il Sole 24 Ore pubblica, e il libro appunto di questa settimana è Come Dio comanda, di Niccolò Ammaniti, vincitore del premio Strega nel 2007. Anche qui mi piace leggervi un brano molto carino, secondo me. Io non ho paura di morire. Solo chi ha paura muore facendo stronzate come camminare su un ponte. Se a te di morire non te ne frega niente, puoi stare tranquillo che non cadi. La morte se la piglia con i paurosi. Passiamo a un tema più pesante o più leggero a seconda dei punti di vista, e cioè la giornata mondiale della gioventù che tra pochi giorni avrà come palcoscenico Madrid. Ci saranno vari appuntamenti, i più importanti sono il 20 e il 21 agosto, ovviamente con il Papa presente. Ci sarà una veglia eucaristica e una messa celebrata da Papa Ratzinger, ma quest'anno la giornata mondiale della gioventù incrocia quello che è il difficile momento economico della Spagna e le proteste degli indignados, come ci racconta lo speciale che Famiglia Cristiana dedica a questo appuntamento. È la seconda volta che la Spagna peraltro ospita la giornata mondiale della gioventù. La prima volta era stato nel 1989 a Santiago de Compostela. La cosa diciamo interessante riguarda appunto questo afflusso di centinaia di migliaia di persone e di giovani che lì porteranno le proteste, che cercheranno in questo appuntamento di farsi, come dire, ascoltare, di trovare un'attenzione che finora non hanno trovato, al di là dei media e della eco che hanno suscitato in tutto il mondo. Anche perché la Spagna, come dicevo, vive un difficile momento. In questo speciale si ricorda appunto un dossier preparato dalla Caritas spagnola che, ahimè, fa emergere come nell'ultimo anno siano triplicati il numero delle persone assistite dalla Caritas, da 300.000 a oltre 1 milione. La maggior parte sono giovani precari senza lavoro e giovani famiglie con coniugi che hanno meno di 35 anni, di solito con uno o due figli. Uno scenario allarmante. La Spagna, come saprete, andrà ad elezioni anticipate per trovare una via d'uscita, e sono i giovani in particolare che soffrono. Tra l'altro gli Indignados sono partiti con zaino in spalla, una cinquantina, da Barcellona il 25 giugno, e a piedi stanno raggiungendo Madrid, percorrendo 652 chilometri a piedi, appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma che stanno vivendo. Saranno presenti alla giornata mondiale della gioventù moltissimi italiani, se ne sono già iscritti oltre 86.000, seguiti appunto dagli spagnoli, quindi gli italiani saranno più degli spagnoli, gli spagnoli saranno 82.000, i francesi 50.000 e così via. La difficoltà anche dei giovani italiani, sappiamo che il tasso di disoccupazione tra giovani, in particolare a sud, è molto alto, quasi il 30%, e una storia di giovani e di disoccupazione ce la racconta Panorama di questa settimana, che ci parla di un piccolo paese della Calabria, Verbicaro, definendolo appunto il paese dei disoccupati. Metà dei 3.000 abitanti, ci racconta Maria Pirro in questo articolo, cerca lavoro senza trovarlo perché le imprese hanno chiuso o stanno per chiudere, il turismo non decolla e tutti invidiano i nababbi con lo stipendio pubblico. Non da oggi Verbicaro, paese di 3.238 anime, ha una storia travagliata. Il dramma del lavoro è una questione di famiglia e per generazioni gli abitanti si sono trasferiti in America, in Germania e in Trentino, ovunque fosse possibile sbarcare il lunario. E ancora oggi, scrive ancora Maria Pirro, tutti partono sognando però di tornare nella piccola patria. Sempre su Panorama si parla poi di questo restringimento del ceto medio. Se ne parla da molto, ma c'è una ricerca che citano nel loro articolo Carmelo Abate e Guido Fontanelli, in cui si parla appunto della diminuzione reale del potere d'acquisto degli impiegati, quindi del ceto medio. Secondo questa indagine, negli ultimi 10 anni gli impiegati hanno visto salire i loro stipendi mensili da 932 a 1107 euro, ma in termini reali questo significa un calo del quasi 2% del reddito. Ci sono tante altre ricerche che testimoniano ancora più questa crisi e questo restringimento del ceto medio. Ed è stato definito dal New York Times il Chekhov del ceto medio americano, l'autore dei racconti del sole che trovate in edicola oggi, Raymond Carver. In Limonata e altri racconti sono descritte le storie di molti rappresentanti di quello che era il ceto medio americano prima e dopo la guerra. Ralph, ossessionato dal tradimento della moglie, lei alla fine confesserà. Al, per vivere più tranquillo, rapisce ai suoi bambini l'adorata Cagnetta. Un disoccupato sul divano si nega ai creditori, ma un abile venditore riuscirà a farsi aprire la porta di casa. Un padre dal cuore spezzato risale alle prime cause della morte del suo ragazzo, fino al primo limone coltivato sulla terra. Se non ci fossero stati limoni sulla terra e non ci fossero stati supermercati, Jim avrebbe ancora un figlio, o no? Questo è altro trovate nel bel libro di Raymond Carver, che oggi è in edicola con il Sole 24 Ore al soli 50 centesimi in più. Bene, nel prossimo blocco parleremo di altre storie e di altri racconti, e dal restringimento del ceto medio passeremo a questo fenomeno opposto, che è invece l'allargamento dei privilegi e della famosa casta di cui tanto si parla in tutti i media in questi giorni. E c'è un'inchiesta bipartisan, la possiamo chiamare, di Espresso e Panorama, che ci raccontano due versanti opposti di questa crisi e di questa situazione. Magazine 24. Questa è I Mean You di Thelonious Monk, che fa parte della collezione dei miti del jazz, che trovate in edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro. Abbiamo raccontato già ieri gli inizi della carriera di Thelonious Monk, ma fu alla fine il proprietario dell'etichetta Blue Note, Alfred Lane, a scoprire Monk e a registrare nel 1947 la prima di parecchie sessioni che poi costruiranno appunto il mito di Thelonious Monk. Un ruolo però fondamentale nella crescita, nella carriera del grande artista americano lo ha avuto Nellie Smith, con lei che ha sposato nel 47, ma con cui ha avuto due figli e che ha rappresentato più di una moglie però per Thelonious Monk. Si narra appunto che fosse lei poi a scegliergli addirittura i vestiti e a andare spesso in giro con lui anche in modo stravagante, come dimostrarono quando si portarono appresso in Europa due bottiglie vuote di Coca-Cola. Quando gli fu chiesto di pagare una franchigia per aver superato i limiti di peso, i due spiegarono a un funzionario doganale che le stavano riportando negli Stati Uniti per riprendersi i soldi del deposito cauzionale. E appunto, grande stravaganza, tant'è vero che Thelonious Monk amava ripetere: a volte torna a tuo vantaggio se le persone pensano che tu sia pazzo. Stavamo raccontando di questo fenomeno fisico-sociale del ceto medio che si restringe e dei privilegi che si espandono e di questa battaglia anticasta, ormai è diventata quasi una moda parlarne nei giornali, nelle radio, nelle TV, ma grande spazio appunto dedicano a questo argomento i numeri in edicola questa settimana di Espresso e Panorama. L'Espresso si concentra in particolare sulle pensioni, quelle degli italiani vengono tagliate, ci racconta in questo articolo Primo Di Nicola, mentre i vitalizi dei parlamentari o ex parlamentari crescono. Ha diritto al vitalizio dopo solo 5 anni di Parlamento chi appunto riesce a farsi eleggere, con contributi molto bassi e assegni riscossi anche a 50 anni. Appunto, Prima Di Nicola parla di questi giovanotti con un grande avvenire dietro le spalle che si godono la vita dopo gli anni di militanza parlamentare. E l'Espresso ha un bel elenco: sono 2.308 gli ex deputati, si fanno appunto nomi e cognomi, ed ex senatori che incassano il vitalizio. Ogni mese si mettono in tasca da 1.700 a 7.000 euro netti. Tra l'altro molti hanno potuto guadagnare questo vitalizio anche dopo soltanto 2 anni e mezzo di permanenza in Parlamento, da Toni Negri al regista Squittieri, da Gino Paoli all'industriale Benetton, scrive De Nicola. Ci sono appunto i nomi di tutti i parlamentari che hanno potuto godere di questo beneficio, di questo vitalizio. Sull'altro fronte, Panorama, sempre parlando di sprechi, di indennità e soprattutto di assenteismo, ripropone invece quella che è stata un progetto di legge del ministro della semplificazione Roberto Calderoli. Si parla in questo caso di delle indennità ricevute dai parlamentari per la loro attività a fronte dell'assenteismo, e Caris Vanghetti cita la storia del cosiddetto, ho ribattezzato così, deputato invisibile Antonio Gaglione del gruppo Misto, che si è defilato alle votazioni alla Camera 93 volte su 100, seguito dall'avvocato Nicolò Ghedini del PDL con il 76% di assenze. Sono 62, scrive ancora Vanghetti, parlamentari che in 38 mesi di legislatura hanno disertato in media il 46% delle 8.677 votazioni alla Camera. Un assenteismo che non ha impedito a tutti loro di intascare complessivamente solo a titolo di indennità 27,5 milioni di euro. Per questo, insomma, si era proposto da parte di Calderoli di calcolare lo stipendio, chiamiamolo così, dei parlamentari in base all'effettivo lavoro, alla permanenza, e secondo i calcoli che ha fatto Panorama si risparmierebbe circa 12 milioni e mezzo applicando questo metodo. domenica 7 agosto molti di voi staranno andando in vacanza e si staranno recando presso la seconda casa. Cara seconda casa, quasi quasi vado in hotel e l'articolo che Panorama di questa settimana dedica al comprare casa in mare e in montagna, chiarendo che c'è una sorta di crisi profonda nell'acquistare la seconda casa, sia perché il mercato è crollato e i numeri che vengono poi riportati lo testimoniano, sia perché con una serie di calcoli molto concreti si fa riferimento appunto ad un tasso di rendita del 2% dell'immobile turistico acquisito, che sarebbe di molto inferiore ad altri tipi di investimenti. Non so questo quando sia vero, considerando l'andamento attuale delle borse, ma questo è quanto scrive Panorama. Tra il 2005 e il 2007 sono state comprate e vendute una media di 45.000 abitazioni ogni anno al mare e in montagna per il valore di circa 3 miliardi di euro. Dal 2008, complice la crisi, tutto si è fermato. Risultato: meno 34% di giro d'affari tra il 2007 e il 2010, quando per 31.500 case passate di mano sono stati scambiati 2 miliardi di euro, ma il 2011 promette molto meno. In ogni caso, guardando poi i valori di molte località turistiche al metro quadro, insomma, viene un po' dalla pelle d'oca. Non solo i 15.000 euro al metro quadro di Cortina d'Ampezzo o 10.000 di Courmayeur, ma sono prezzi ancora molto alti. Ci sono anche in tante altre località più o meno rinomate, insomma, segno che per quanto ci sia questa crisi, il valore di questi immobili resta ancora molto molto alto. E non so se in questa seconda casa o anche nella prima la scelta degli italiani è controcorrente come quella di molti personaggi famosi e non d'oltremanica, che stanno scegliendo nella seconda casa, appunto nella prima, di dormire in letti separati. È un tema che mi ha incuriosito. La conduttrice di un programma, la BBC, Jenny Murray, come ci racconta Didi Repubblica di questa settimana, non dorme con il suo compagno da oltre 22 anni e sostiene che sia il segreto di una relazione felice e riposatissima, mentre ci sono altre testimonianze per cui invece il dormire insieme è un momento irrinunciabile, fa parte di quella intimità quotidiana che migliora la giornata e dà un senso all'esistenza. Diciamo che è un bel dilemma, soprattutto per chi ha un compagno o una compagna che è russa, o per il quale, diciamo, la convivenza e l'esistenza a letto insieme durante le ore notturne non è più così importante, che potrebbe portare o meno al divorzio. La conduttrice della BBC racconta un po' la sua storia. Insomma, all'inizio aveva molte resistenze, pensava che quella dichiarazione da parte del marito fosse una dichiarazione di infedeltà o comunque di un amore che stava venendo meno, invece poi ha imparato ad apprezzare questo distacco durante le ore notturne, che gli permettono appunto di non solo di riposare bene, ma di accrescere il suo amore. Contenta lei. E siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento di domenica 7 agosto con Magazine 24. Per chi volesse scriverci, c'è l'indirizzo magazine24@radio24.it. L'indirizzo che potete trovare anche sul Sole 24 Ore o sul sito del Sole 24 Ore. Io intanto voglio ringraziare in regia Carmelo Lauricella e in redazione Anita Panizza. A presto.